Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17, 7 minuti e 36 secondi. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. In una giornata che inevitabilmente è caratterizzata ancora da un vero e proprio crollo di borsa, no? Comunque da un calo pesantissimo. Quello che sembrava un crollo almeno fino a un'ora fa, un'ora e mezza fa circa, e adesso si caratterizza appunto come un pesante calo, meno 2,21% sul FTSE MIB, meno 2,5% sul FTSE All Share. Quindi, come vedete, migliorano lievemente le borse anche rispetto al collegamento che abbiamo fatto poco fa all'interno del giornale radio. Il CAC 40 perde il 2,5%, Francoforte perde quasi 3 punti percentuali. Questo è il quadro. Le banche recuperano qualcosa anche dopo lo stop alle vendite allo scoperto arrivato dalla Consob, che durerà per tutta la settimana per quanto riguarda proprio le banche e le assicurazioni. Anche in conseguenza di questo, naturalmente, evidentemente non solo, meglio, cercheremo di capire anche questo tra poco. Tra l'altro, nella stessa direzione si è mossa l'autorità di borsa in Madrid, addirittura estendendo il divieto a 3 mesi. È giornata caratterizzata da questo andamento dei mercati, perché caratterizzata ancora una volta da la massima incertezza a livello politico europeo, con ministri tedeschi che sproloquiano, forse no, comunque dicono che l'uscita della Grecia all'euro non è un tabù, con indiscrezioni che arrivano forse non a caso sempre dalla Germania, secondo le quali il Fondo Monetario, insomma, non sarebbe disposto a dare più quattrini alla Grecia, quindi ci si avvierebbe abbastanza nitidamente verso un default. Le tensioni che riguardano la Spagna, con la necessità di un salvataggio che non riguarderebbe solamente più le banche, tanto che un'indiscrezione del Guardian diceva oggi che si starebbe parlando di un piano di aiuti da 300 miliardi di euro per la Spagna, e chissà a questo punto se basteranno in una situazione, consentiteci di citare il ministro dell'economia Vittorio Grilli, che in una lettera oggi al quotidiano La Repubblica, in realtà concentrata sulle fondazioni bancarie, in un inciso dice, parla di una crisi finanziaria interminabile. Insomma, si intravede anche la stanchezza del tecnico, la stanchezza del ministro dell'economia. Parleremo di questo e avremo lo spazio per parlare anche di lavoro. Vedremo invece se riusciremo ad approfondire, se avremo i tempi per approfondire anche la visita del Presidente del Consiglio Mario Monti in Russia, e quindi fare un punto anche sugli accordi che sono stati firmati. 349-238-6666 per i vostri SMS. Iniziamo non con le notizie in breve questa volta, ma proprio parlando di mercati, per cercare di fare un punto quando siamo a pochi, a una ventina di minuti dalla chiusura. E saluto Andrea Ragaini, che è direttore centrale Private Banking di Banca Carige. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, in gran parte l'andamento della giornata sappiamo a cosa è dovuto. Tra l'altro, non vi ho aggiornato sull'andamento dei titoli di Stato, lo spread tra i titoli italiani e quelli tedeschi, ossia la differenza di rendimento a 515 punti, il rendimento dei titoli di Stato italiani intorno al 6,3%, per quanto riguarda gli spagnoli siamo intorno al 7,5%, con uno spread che si aggira intorno ai 630 punti. Le motivazioni in parte le abbiamo riassunte, Ragaini, di questa ennesima giornata pesante sui mercati. È molto semplicemente una questione di incertezza. Sì, è una questione di incertezza, è una questione di breve periodo. Nell'ultimo vertice europeo del 28 e 29 giugno erano state poste le basi per un percorso di medio periodo con un'unione bancaria entro 12 mesi, purtroppo abbiamo sempre il breve periodo che ci mette a rischio il raggiungimento del medio periodo, come se avessimo un ostacolo sulla strada di breve periodo che di fatto nella sostanza abbiamo già superato, ma che potrebbe interrompere il percorso di arrivo a destinazione. E purtroppo lo spread è determinato da una mancanza di fiducia dell'Europa e un po' forse anche dei meccanismi regolatori internazionali che consentono a grossi flussi di capitale di speculare contro gli stati sovrani e di conseguenza far pagare poi il conto a tutti i cittadini che in quello stato sovrano vivono. Tutto questo ha ovviamente un impatto diretto sui mercati e spesso particolarmente su Piazza Affari perché, come sappiamo, le banche italiane sono abbastanza esposte verso lo Stato italiano. Quello che voglio capire da lei è come mai abbiamo avuto miglioramento in questa fase finale di seduta, perché non ci dica che è questo blocco delle vendite allo scoperto da parte della Consob, perché l'altra volta non è che avesse funzionato questo granché. No, non penso proprio che l'elemento centrale sia questo. Un po' come alle 15 di venerdì pomeriggio si è scatenata una ondata di vendite sui titoli di Stato italiani e spagnoli, sui titoli bancari italiani e spagnoli, e un'ondata di vendite anche sull'euro nel cross contro dollaro, un po' nella seconda parte del pomeriggio è ritornato un clima di maggiore distensione, così come non c'era una grande motivazione, anzi non c'erano affatto motivazioni venerdì, non ce ne sono oggi, e questo purtroppo ci riporta al tema dominante, che i flussi finanziari si muovono in alcuni casi in modo automatico, in alcuni casi i più maligni potrebbero dire in modo pilotato, ma certamente non rispecchiano ormai più quelli che sono i fondamentali di quello che si va a comprare o vendere. Mi sembra chiarissimo, poi noi torneremo in dettaglio anche sui singoli titoli perché poi ci sono storie particolari, lo faremo come sempre con i colleghi di Radio Cori il Sole 24 Ore, perché abbiamo per esempio un Monte dei Paschi che da un calo nettissimo è arrivato a guadagnare il 4,77%, ci sono storie come quella di A2A che non è un titolo bancario ma un titolo energetico che ha ceduto il 6,17%, questo lo faremo più avanti. Nel frattempo ringrazio Andrea Ragaini, direttore centrale Private Banking di Banca Carige, per essere stato con noi e buonasera. Grazie a voi, buon proseguimento. E noi andiamo con le notizie in breve di oggi. Chiedete, ma Grilli adesso è arrivato, come fa ad essere già stanco? Beh, insomma, è stato direttore generale del Tesoro a lungo, insomma, quindi questa crisi, come dire, l'ha vissuta tutta in prima linea. Materie prime, come sempre, in primo piano, a partire dall'oro, che è in calo a 1579,3 dollari l'once in apertura, in calo dello 0,3%. In netto calo anche il prezzo del petrolio, il prezzo del greggio. Il WTI, quello quotato a New York, è in questo momento 88,93 dollari al barile, quello con consegna a settembre, in calo del 3,16%, mentre invece per quanto riguarda il Brent, quello quotato a Londra, in calo del 2,99% a 106,8 dollari al barile. A proposito di petrolio, meglio di benzina, è stato confermato lo sciopero dei benzinai, dei gestori per meglio dire. I benzinai sciopereranno il 4 e il 5 agosto, però non sciopereranno il 3. Questo l'esito dell'incontro di FAIB, FEGICA e FIGIST ANISA con la Commissione di Garanzia per gli Scioperi. A proposito di debito pubblico, ci sono i dati forniti da Eurostat. Riguarda quello dell'intera Unione Europea, dell'Unione Europea 17 in realtà. Ancora in crescita all'88,2% del PIL nell'Eurozona contro l'87,3% di fine 2011. Anche in Italia debito in aumento al 123,3%, un debito rispetto al PIL inferiore solo a quello della Grecia che è al 132,4%. Nuovo picco storico dal 95. E sempre a proposito dell'Italia, ci sono i dati sull'occupazione dopo l'indagine Unioncamere Excelsior di ieri. Anche questo, il tema dell'occupazione, lo toccheremo più avanti, che illustrava come nell'ultimo trimestre, nel trimestre a venire, solo il 20% delle assunzioni sarà a tempo indeterminato. Ci sono dati proprio sulla disoccupazione arrivati dalla CISL. In 5 anni da inizio crisi sono 675.000 i posti di lavoro in meno nell'industria, tra andati in fumo e a rischio. La perdita secca, dice la CISL, è di 473.000 posti, cui si sommano 201.000 lavoratori equivalenti a 0 ore, interessati quindi da cassa integrazione speciale o in deroga. Si parla del 10% della base industriale. E sempre a proposito di Italia, ci sono le dichiarazioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che è anche a capo di Equitalia, che insiste, Attilio Befera, insiste sulla necessità di una semplificazione del sistema fiscale. Dice che abbiamo creato un sistema che è un pachiderma ed è quasi impossibile compilare correttamente un 730. Una vera semplificazione è essenziale. Insomma, salvo che poi è la stessa Equitalia quella che manda la cartella esattoriale quando il 730 lo compili male. Comunque, prima di passare al primo argomento di giornata, che ancora una volta naturalmente è l'Europa, ancora per usare l'espressione di Grilli in questa interminabile crisi, le notizie su che cos'è questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Iniziamo dall'estero con una notizia che arriva dalla Russia: la produzione di diamanti in calo del 44%. La crisi europea colpisce duramente la russa Alrosa, che è la più grande compagnia diamantifera del mondo. Appunto, il calo della produzione è stato del 44% nei primi 6 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2011, passando dai previsti 119,7 milioni di dollari a 70,5 milioni di dollari. E adesso continuiamo ad occuparci della nostra abitudinaria regione, la Sicilia. Apprendiamo dall'ANSA che la regione Sicilia ha arruolato oltre 1.000 rilevatori. E che cosa saranno mai? È personale esterno inserito in 2 elenchi e che sarà chiamato per svolgere indagini statistiche. E perché? È perché c'è, si legge nel bando, nell'avviso pubblico del quale l'ANSA dà notizia, c'è carenza di personale interno per le finalità connesse alle indagini statistiche. Ricordiamo che la regione ha in organico 18.000 dipendenti, compresi 1.600 dirigenti. Tra l'altro, sul tema delle assunzioni, da dire che i compensi per questo personale esterno saranno stabiliti di volta in volta. Sul tema delle assunzioni sentiamo che cosa ha detto oggi a 24 Mattino il presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo, alla vigilia dell'incontro domani con il presidente del Consiglio Monti. Io dirò come stanno le cose e così come abbiamo fatto peraltro con Grilli quando ancora non era ministro, abbiamo prospettato realisticamente la situazione in un contesto nel quale riforme radicali per intaccare quelli che sono le cause strutturali della nostra debolezza economico-finanziaria, dirò, vediamo di lavorare insieme perché in un arco di tempo ragionevole, noi a Grilli avevamo prospettato 3+3 anni, noi possiamo uscire da questa condizione di crisi. Certo, delle ragioni di debolezza del nostro bilancio è legata al fatto che la spesa corrente incide per molto, ma noi la spesa corrente l'abbiamo ridotta in questi 4 anni del 20% abbiamo incrementato del 20% la spesa per investimenti. Però, anche se qua mi si crocifigge per la vicenda dei precari, dei forestali, dei dipendenti, io questa gente l'ho trovata, e fino a prova contraria questa gente non la si licenzia e non la si uccide. Noi avevamo 3 società partecipate che fornivano servizi all'amministrazione pubblica, al 99% alla regione, no? Sì. Queste 3 società le abbiamo fuse in una sola in virtù di una legge regionale e abbiamo messo insieme i dipendenti delle 3 società in una sola società, quindi sono gli stessi lavoratori di quelle 3 società che transitando in una fanno scrivere assunte 2000 persone. Assunto e non abbiamo stabilizzato, perché si tratta di una di quelle società che secondo il decreto Monti, cosiddetto spending review, sono state fuse. Partecipare alle gare, però o dovranno essere privatizzate. Mi scusi. Non abbiamo assunto nessun lavoratore che ha fatto 70 giorni, perché se avesse aperto un contenzioso l'ho aperto con le società che sono morte, sono state liquidate e certamente non potrà rispondere la nuova società, e abbiamo avviato il giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori che negli anni scorsi hanno fatto cose del genere. Ed eccoci, questo era appunto il presidente della regione Sicilia, Raffaele Lombardo. Ci scrivete: pulitevi la bocca voi rozzi cialtroni prima di nominare la Sicilia, ma al 349-238-6666, ma mica ce l'abbiamo con la Sicilia, ce l'abbiamo con chi l'amministra e con chi l'ha amministrata in questi anni. E dunque veniamo alle questioni europee, visto insomma che stiamo parlando di dei pericoli di finanza pubblica che derivano da una regione di questo paese, la Sicilia. Iniziamo proprio dalla Spagna, dove si aggiungono quotidianamente regioni del paese che insomma sembrano essere a rischio default. Saluto Luca Veronese del Sole 24 Ore, che è il collega che segue le vicende spagnole costantemente. Luca, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, si parla di venerdì scorso la regione autonoma di Valencia ha chiesto un salvataggio allo Stato centrale. A questo punto le regioni a rischio sono almeno altre 6: la Catalogna, la Castiglia, le Baleari, la Murcia, le Canarie, l'Andalusia. Questo è il quadro. Il ministro dell'economia spagnolo, Luis de Guindos, incontrerà a Berlino il ministro delle finanze tedesco, Wolfgang Schäuble. Allora, Luca, da questo lato, alcune indiscrezioni circolate oggi parlavano della possibilità di una richiesta, a questo punto direttamente ai tedeschi, perché tanto quello è lo scoglio da passare, probabilmente ormai qualsiasi governo europeo lo sa, di una richiesta da 300 miliardi contro i 100 miliardi solamente per le banche che si ipotizzavano, 300 miliardi direttamente anche per lo Stato spagnolo. La situazione sì in Spagna, la crisi spagnola sta degenerando in un modo che già purtroppo si è visto in Europa, in Grecia, anche in Irlanda, se vogliamo restare al settore bancario. E certo, De Guindos vedrà Schäuble, e si parla sempre di più di un salvataggio sovrano, il salvataggio dell'intero paese, dell'intera economia spagnola, e i 300 miliardi forse sono anche poco rispetto alle stime degli analisti di questi ultimi mesi, che arrivavano anche a 400-500 miliardi, ma come vedete stiamo facendo un po' dei calcoli sul futuro temendo il peggio. Più probabile forse quasi sicuro che De Guindos insisterà con Schäuble sì per avere un supporto maggiore da parte della Banca Centrale Europea, è quello che la Spagna va chiedendo da molto tempo e che sembra quasi inevitabile, un supporto della Banca Centrale Europea in funzione anti-spread o in qualche altra forma di prestito per garantire liquidità al paese. La Spagna sta messa molto male, sta peggiorando l'economia. Un po' come è stato di fatto consentito a noi, Luca, perché qua sembra che qualcuno non se lo ricordi, però a novembre lo spread con i titoli di Stato era, con i titoli di Stato tedeschi, il nostro, era più o meno ai livelli di quello che è attualmente quello della Spagna, intorno ai 730 punti o poco più, e poi la Banca Centrale Europea effettivamente ha iniziato a comprare per dare respiro, no? Sì, è esattamente così. Di fatto la Spagna, in misura minore l'Italia, è già fallita, nel senso che senza il supporto della Banca Centrale Europea proprio sull'acquisto sul mercato secondario dei bonus, lo Stato spagnolo avrebbe dovuto dichiarare bancarotta. È iniziato l'estate scorsa questo acquisto da parte dell'istituzione guidata da Mario Draghi, e poi si è interrotta però con il marzo di quest'anno, tanto è vero che giustamente il Premier Mario Monti ricorda che lo spread sta salendo, ma resta comunque più basso di quanto non fosse in Italia alla fine dell'anno, e senza l'aiuto della BCE. In Spagna però sembrano non farcela. Fra l'altro l'economia si sta pericolosamente avvitando di nuovo in una spirale già vista. Sì, tra l'altro vedevo i dati, no? Ci sono i dati sul prodotto interno lordo che sono pesanti, un meno 0,4% rispetto al trimestre precedente, anche un nuovo record degli sfratti per giunta. Sì, la situazione è critica sul versante della crescita, come ricordavi, per le famiglie. Ricordiamo un tasso di disoccupazione vicino al 25%, con più di 5 milioni e mezzo di disoccupati in un paese che ha 41 milioni di abitanti. In più il debito pubblico, uno dei parametri che la Spagna era sempre riuscita a controllare, che è ancora non altissimo, ma che cresce più di tutti gli altri nell'Eurozona, tant'è vero che è vicino all'80%, ma è cresciuto del 3,7% solo nell'ultimo trimestre, quindi con dinamiche davvero preoccupanti, alle quali si aggiunge la tensione che ricordavi inizialmente tu sulle regioni autonome che hanno i conti in disordine e che non riescono a contrarre la spesa come vorrebbe la Germania di Schäuble e come vorrebbe l'Unione Europea. Chiarissimo, Luca, vedremo come evolverà la situazione nelle prossime ore, se ci saranno esiti da questo incontro appunto col ministro tedesco. Intanto ti ringrazio e ti saluto. Buonasera, Luca Veronese del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Dato che abbiamo evocato tanto la Germania quanto la Banca Centrale Europea, saluto un altro collega del Sole 24 Ore, che è Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte. Alessandro, buonasera. Sì, buonasera a voi. Allora, il fine settimana è stato piuttosto denso, sia da un lato che dall'altro, perché sempre dalla Germania, io ho detto forse non a caso, sono arrivate due notizie. Una è il ministro che dice che, insomma, che l'uscita della Grecia all'euro non è un tabù, dall'altra parte questa indiscrezione di Der Spiegel che parla della possibilità che il Fondo Monetario non dia i soldi promessi alla Grecia perché l'avanzamento delle riforme non è quello voluto. Il Fondo Monetario ha delle regole ben precise, non presta soldi a paesi che siano in arretrati, e di solito quello che cerca di fare è che, quando non rispettano gli impegni presi, cerca di modificare i programmi. Con la creazione di questa troica, con la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea, le regole sono diventate molto più rigide, quindi proprio perché ci sono tanti paesi coinvolti, fra cui alcuni piuttosto dogmatici su queste cose, compresa la Germania, la flessibilità sui programmi è diventata molto inferiore. Il Fondo Monetario ha precisato oggi, riguardo alle indiscrezioni dello Spiegel, che la troica, la cosiddetta missione degli esperti, parte per Atene, arriva ad Atene domani, e che quindi è piuttosto prematuro anticipare il fondo sia pronto a interrompere l'elargizione dei fondi. Il ministro tedesco, che ha detto che la Grecia dovrebbe uscire dall'euro, un ministro che non ha nessuna competenza a parlare, è Philip Rösler, che è il ministro dell'economia, non il ministro delle finanze, ed è anche il capo dei liberal democratici, quali stanno un po' sgomitando per avere una loro visibilità, visto che i sondaggi li danno in gravissima perdita di favori, addirittura possibilmente esclusi dal Parlamento alle elezioni dell'anno prossimo se non riusciranno ad arrivare al 5%. Quindi una dichiarazione, più politica, no? Mi sembra di ma direi più politica, però non c'è dubbio che in Germania il clima contro la Grecia, in genere contro i paesi del sud Europa, si stia molto irrigidendo. Lo stesso ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, in un'intervista data al fine settimana, e lui veramente conta su queste materie, ha detto insomma la Grecia alla fine se ha dei ritardi nella messa in atto dei programmi concordati in cambio degli aiuti internazionali deve mettersi al passo, che poi è un po' quello che ha detto anche il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Di nuovo buonasera da Simone Spezia. Ha ragione chi ci scrive che lo spread italiano nel 2011 al massimo è stato a 570 punti. Quello è stato un errore mio. Stavo parlando in realtà del rendimento dei titoli di Stato italiani, che è arrivato al 7,26% se non erro come massimo, mentre invece oggi è al 6,32%. Appunto parlavo del rendimento dei titoli di Stato italiani. Dunque, ritorniamo con Alessandro Merli, corrispondente a Francoforte del Sole 24 Ore, per fare il punto adesso sulle mosse della Banca Centrale Europea. Vogliamo capire da te soprattutto che aria tira dalle parti di Francoforte. Alessandro. Ma nel fine settimana Draghi ha detto due cose. Una, che è stata quella che ha ricevuto più pubblicità, diciamo, è il fatto che l'euro è irreversibile, e su questo non tutti forse sono disposti a credergli a questo punto, sicuramente sui mercati ci sono molti dubbi. L'altra cosa però che ha detto importante è che la conservazione dell'euro fa parte del mandato della BCE e che la BCE è aperta e non ha tabù per il tipo di interventi che può fare. Siccome Draghi già in passato ci ha abituato a delle mosse inaspettate, soprattutto il doppio taglio dei tassi di interesse alla fine dell'anno scorso e le due massicce operazioni di iniezione di liquidità al sistema bancario per oltre 1.000 miliardi di euro, non è detto che nei prossimi giorni o nelle prossime ore la BCE possa decidere qualcosa. E c'è uno scoglio tedesco da questo lato ancora una volta? C'è sicuramente uno scoglio tedesco, però anche su questo Draghi ci ha abituato a vedere che a volte la BCE può decidere non all'unanimità, come per la verità fa di solito, ma anche, come dicono qui, per consenso, cioè con una maggioranza e una minoranza. E non c'è dubbio che la Bundesbank, cioè la Banca Centrale Tedesca, e le altre dei paesi, chiamiamoli così, più rigoristi, l'Olanda, la Finlandia e il Lussemburgo, sono in netta minoranza nel Consiglio della BCE, per cui se Draghi dovesse ritenere che la situazione è veramente sull'orlo del collasso, potrebbe anche cercare di pilotare il Consiglio a prendere determinate decisioni nonostante l'opposizione della Bundesbank. È anche vero che è difficile alla lunga tenere questo tipo di posizione se il tuo principale azionista, perché non dimentichiamoci che la Germania è il più grosso azionista della BCE, si oppone a ogni decisione che tu stai prendendo. Insomma, comunque delle carte in mano la BCE le ha, vedremo se le vorrà usare. Vedremo cosa accadrà. Dunque, le prossime ore immagino saranno decisive se i mercati vanno avanti così. Nel frattempo la chiusura è stata in calo del 2,7% per il FTSE MIB, del 2,9% per il FTSE All Share. Pesante anche Francoforte, giù del 3,10%, e Parigi di quasi 3 punti percentuali. Grazie ad Alessandro Merli, corrispondente a Francoforte del Sole 24 Ore. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Ci chiedete perché l'Italia non si dota di un piano, insistentemente ci chiedete perché l'Italia non si dota di un piano B al 349-238-6666. Non sappiamo esattamente che cosa si intenda per questo. Su questo sono circolate le indiscrezioni. Un noto economista, Paolo Savona, nei mesi scorsi ha riferito che il ministro Tremonti gli ha riferito di avere un piano B che prevedeva l'uscita dall'euro, ma ripeto, sono pure indiscrezioni, insomma non sappiamo se un piano B esista e che cosa si intende esattamente per un piano B. Veniamo proprio alla borsa. Giornata molto pesante, come si diceva, con Milano che è arrivata a perdere 5 punti percentuali, lo spread è arrivato a 528 punti base, adesso è a 517, mentre il rendimento dei nostri titoli decennali è al 6,34%, in lieve risalita negli ultimi minuti, e come si diceva sempre in questi casi, molto male tutte le banche. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Banche che poi sono migliorate in corso di seduta. Iniziamo proprio da qua, visto che il tema ha attraversato finora praticamente tutta la puntata, perché abbiamo iniziato parlando dei mercati, delle cause per cui i mercati stanno scendendo. Ti chiederei di andare più che altro sui singoli settori, sui singoli titoli, iniziando proprio dalle banche, in particolare dal Monte dei Paschi, che in realtà chiude la seduta con un guadagno del 4,01%. Sì, esatto. Proprio sul finale, poco prima del finale, le azioni di MPS, ma anche di altre banche, sono repentinamente migliorate, sono repentinamente rimbalzate. Peraltro il Monte dei Paschi invece questa mattina era arrivato a perdere oltre il 7%, le azioni erano piombate al minimo storico di 0,14 euro, hanno chiuso a 0,16 euro. Cos'è successo? Difficile da dirlo, parlando con i trader si tratta esclusivamente di un rimbalzo determinato da motivi tecnici. Sappiamo che a metà giornata la Consob ha infatti vietato per tutta la settimana le vendite allo scoperto sui titoli finanziari. Evidentemente gli operatori hanno impiegato un po' a recepire l'informativa, soprattutto hanno indicato che si sono svegliati soprattutto gli investitori americani, che quindi arrivano ovviamente nel pomeriggio. Investitori americani che sono soliti proprio fare vendite allo scoperto e fare trading sui titoli. Sono scattate immediatamente le ricoperture proprio sui titoli che evidentemente erano venduti a piene mani, come si suol dire, e quindi in primis su MPS. A sentire i trader comunque si tratta esclusivamente di un rimbalzo tecnico, tant'è che non ha retto su altri titoli, ad esempio erano andati su anche BPM e anche lo stesso Banco Popolare, sono arrivati a guadagnare oltre mezzo punto percentuale, poi hanno chiuso il ribasso, il Banco Popolare dell'1,85%, BPM dell'1,21%, anche la stessa Unicredit era andata su ma poi ha chiuso in calo dello 0,16%. Sì, e per chiudere con le banche, Intesa San Paolo in calo dell'1,76%, la Popolare Emilia Romagna dell'1,71%, negativa anche Mediobanca dell'1,14%. Certo, si tratta di cali comunque contenuti rispetto a quelli che erano i cali di questa mattina, che hanno contribuito anche al miglioramento dell'indice. Nel corso della seduta l'indice era arrivato a perdere oltre il 5%, alla fine ha ridotto le perdite al 2,7%, è andata peggio Francoforte, dove invece non c'è il divieto delle vendite allo scoperto. In effetti la piazza è arretrata, sta arretrando, sta chiudendo in questo momento del 3,18%. Sarei curioso di capire da te, Eleonora, al di là, ecco, che tra le banche abbiamo saltato forse UBI, che ha lasciato sul terreno il 5,66%, sarei curioso di capire come mai alla fine il titolo peggiore è stata 2A, un meno 6,2%. Ma sì, in questo caso il titolo aveva tentato un breve rimbalzo nei giorni scorsi, da inizio anno perde la metà perde molti punti, meno 6,2% oggi. Ricordiamo che l'azienda ha oltre 1,1 miliardi di debiti, nei giorni scorsi i vertici della società hanno promesso che presto presenteranno un piano di riduzione del debito, d'altra parte probabilmente dovremo attendere fino al prossimo autunno, e quindi nei momenti di magra del mercato si fugge soprattutto dalle società che sono altamente indebitate, in primis da A2A, che così è piombata su nuovi minimi storici. Vedo pesanti molti industriali, Pirelli, Fiat, Impregilo, Finmeccanica. Sì, premesso che oggi si alleggeriva tutto il listino, quindi si fuggiva dall'Italia e si vendevano indiscriminatamente un po' tutte le azioni. Ovviamente comunque si vendono le azioni cicliche perché si inizia a mettere in conto una recessione che probabilmente sarà peggiore delle attese. Del resto proprio oggi anche la Banca della Spagna ha indicato che ha rivisto un po' le stime, ha detto che per il secondo trimestre il prodotto interno della Spagna ha registrato un calo dello 0,4%, peggiore rispetto alle attese. Chissà che non avvenga la stessa cosa anche in Italia, quindi ovviamente fuggi dalle aziende più legate al ciclo economico. Chiarissimo. Brevissima, Eleonora, su Mediaset. Brevissima. Sì, Mediaset in questo caso meno 3,48% nel durante della seduta, è arrivata a perdere di più, si ha paura ovviamente del piano di ridimensionamento annunciato dall'azienda, che è superiore a quello che era stato annunciato in precedenza. Ricordiamo che nel prossimo triennio la società ha annunciato che effettuerà un piano di risparmi per 400 milioni anziché 250, e poi la stampa di oggi ipotizzava anche che il prossimo anno l'azienda non distribuirà un dividendo, ma appunto le cedole saranno messe a servizio del debito che dovrà essere abbattuto. Ci sono molti SMS a proposito del piano B del quale si parlava prima. Ci scrive Marcello da Firenze: il piano B sarebbe cacciare via la Germania dall'euro, facciamolo. Poi ci parlate della Spagna, che la Spagna rischi, è una cosa che si sapeva già da mesi, così come le sue regioni. Non c'è niente di nuovo rispetto a sei mesi fa. In due giorni è esploso il caso Spagna, speculazione pura. Dite, se i mass media fossero meno sensazionalistici, francamente gli hedge che scommettono sul fallimento, gli hedge fund che scommettono sul fallimento della Spagna, non penso che ascoltino Focus Economia nelle loro scelte di investimento. Insomma, probabilmente si basano naturalmente su ben altro. Noi veniamo dunque a parlare di economia italiana e di lavoro. Il lavoro dei giovani, per quelli che ce l'hanno naturalmente, perché secondo i dati dell'Istat nella fascia età tra i 15 e i 24 anni il record si è toccato a maggio 2012, 36,2% di disoccupazione, il dato più alto dal 92. Disoccupazione complessiva al 10,1%, sono messi assai peggio paesi come la Spagna, naturalmente la Grecia, dei quali ci siamo occupati fino adesso. Un quarto della popolazione spagnola è senza lavoro, un quinto di quella greca, il 21,9%. Ne parliamo perché l'Istituto Toniolo di Milano, in collaborazione con l'Ipsos, ha promosso una ricerca sull'universo giovanile, anche sui valori, i desideri, le aspettative, i progetti di vita, e anche collegati proprio al mondo del lavoro, dal quale, dai primi dati che abbiamo sotto mano, ci sembra che venga sfatato anche qualche luogo comune. Io saluto Alessandro Rosina, che è ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano ed è uno dei coordinatori della ricerca. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, il primo luogo comune che mi sento di sfatare, almeno che emerge dalla vostra ricerca, noi abbiamo questa tendenza a dire che insomma i giovani non si adattano a fare un po' i lavori che gli capitano. In realtà, vista in negativo la cosa, è il primo dato che possiamo fornire, ossia tra chi ha un lavoro solo il 20% è pienamente soddisfatto del suo impiego, mentre il 25% è poco o per nulla soddisfatto. Questo vuol dire che di fatto si sono adattati a fare un mestiere che probabilmente non volevano fare. Magari non sarà appunto il muratore, che lavoro dignitosissimo, lo diciamo semplicemente perché sono quei famosi lavori di cui si dice che gli italiani non vogliono far più. Però insomma c'è un livello di insoddisfazione abbastanza alto, che segnala però anche dei margini di adattamento che ritenevamo non esistessero. Sì, no, infatti questo è il luogo comune che senz'altro va sfatato, cioè ci sono delle strategie di fronteggiamento della situazione messe in campo dai giovani e quindi in qualche modo sono realisti, sono lontani dallo stereotipo dei bamboccioni, cioè cercano di capire quello che è l'offerta di un paese che fa fatica a crescere, che si trova in una fase delicata di crisi e quindi di adattarsi anche quindi a fare lavoro. Abbiamo perso la linea con Alessandro Rosina, ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano. È la diretta. Rosina, ci sente? Sì. Ah, benissimo, perfetto. L'abbiamo persa sull'adattamento dei giovani. Sì, adesso mi sentite? Sì, perfettamente. Sì, no, c'è questa strategia di fronteggiamento della crisi, di questa situazione problematica che affronta il paese, e quindi questi giovani cercano insomma di adattarsi a questa situazione, quindi accettare anche lavori che non sono pienamente in linea con le proprie ambizioni. Le ambizioni comunque e le aspettative continuano a essere elevate, perché il 90% dei giovani intervistati comunque ambisce ad avere un lavoro che gli consenta poi di realizzarsi, di progettare un proprio futuro, lo vede anche come un luogo di impegno personale, quindi un lavoro insomma in cui mettersi in gioco, spendersi, darsi da fare. Però poi la realtà è diversa, almeno la realtà di oggi è diversa, e quindi in qualche modo cercano di fare di necessità virtù, e un bel 50% ad esempio si accontenta di un lavoro che è sottopagato, è pagato meno rispetto a quello che si aspetterebbero, e il 47% fa comunque un lavoro che non è direttamente... Abbiamo evidentemente dei problemi di linea con Alessandro Rosina, che adesso proveremo a recuperare, magari insomma su un'altra linea se ci riusciamo, in maniera che lo si possa ascoltare meglio. Nel frattempo insomma c'è qualche SMS che riguarda il tema della Germania. Ci dite cacciare la Germania dall'euro magari. Ora però chiariamo una cosa: allora, i tedeschi avranno i loro difetti e la loro difficoltà a gestire naturalmente questa crisi. È però vera un'altra cosa, che provando a mettersi dall'altra parte, ad avere se voi foste in un paese nel quale avendo un'impresa si paga la metà il credito rispetto a quello che si paga in un paese vicino e concorrente come l'Italia, se il vostro debito pubblico lo pagaste con interessi negativi, cioè vi dessero dei soldi addirittura perché teniate i loro soldi, insomma non so se tutta questa solidarietà europea anche da parte del nostro paese ci sarebbe in una situazione di quel genere. Anche su quello va ragionato, perché insomma sono questioni psicologiche, ma non solamente quelle. Noi che appunto abbiamo perso il professor Alessandro Rosina, ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano, comunque il tema mi sembrava abbastanza chiaro, tocchiamo invece il tema del viaggio in Russia di Mario Monti. E lo facciamo con la nostra Antonella Scott, inviata del Sole 24 Ore a Mosca. Buonasera Antonella. Buonasera. Che sentiamo che anche qua il telefono non va benissimo, però volevamo innanzitutto capire da te, Antonella, al di là delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, toccare il tema degli accordi raggiunti da una serie di aziende italiane appunto con la Russia. Sono sei principali, mi sembra. Sono quelli che appunto, come ha detto il Presidente del Consiglio ieri sera da una cena con gli imprenditori italiani, diciamo i più rappresentativi della presenza italiana in Russia, sono accordi che dovrebbero essere la risposta ai mercati, la risposta dell'economia reale, dell'industria che guarda lontano e che quindi cerca di aiutare la crescita. Sono accordi che vanno dalla settore tradizionale, quello dell'energia, a quello anche delle banche, delle costruzioni, quindi anche dei settori nuovi, delle nuove frontiere. In particolare ricordiamo che Eni ha trovato un accordo con Rosneft, che è la principale compagnia petrolifera russa, per finanziare le esplorazioni nel Mar Nero e nel Mare di Barents alla ricerca di petrolio. C'è un importantissimo accordo per investimenti per un valore di 2 miliardi di dollari di Techint, che si impegna per aiutare Norilsk Nickel, che è il primo produttore mondiale di nickel, il palladio, e che ha contribuito a formare nella città di Norilsk, nell'Artico, con le emissioni di anidride solforosa, una delle città più inquinate al mondo. Ecco, Techint, con una tecnologia innovativa, un prototipo che piano piano studierà insieme ai partner russi, si propone di abbattere le emissioni, le emissioni di zolfo, e quindi aiutare il risanamento dell'area. Ci sono poi anche accordi che riguardano in questa San Paolo per credito a imprese che vogliano espandersi a livello internazionale, accordi per lo sviluppo turistico, questo è un progetto a cui le autorità russe tengono molto, dell'area del Caucaso del Nord alle spalle di Sochi. Insomma, questo è quello che in una giornata, ma anche in una giornata come oggi, si vuole cercare di vedere come un... Come ha detto Monti oggi, guardare all'economia reale. Poi, tra l'altro, Antonella, proprio tra poco ti ritroveremo all'interno del giornale radio proprio per fare il punto sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Le 18:07, di nuovo buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia. Riassumiamo brevemente la situazione dei mercati: in calo del 2,76% il FTSE MIB, del 2,92% il FTSE All Share, in una giornata pesantissima che si annunciava addirittura peggiore, perché Milano era arrivata a perdere 5 punti percentuali. Poi sono intervenuti alcuni elementi, come per esempio anche il divieto di vendite allo scoperto da parte della Consob per una settimana, anche se l'impatto è stato chiaramente limitato, come fu anche l'ultima volta che fu emesso questo provvedimento. Madrid invece l'ha vietate per 3 mesi su banche e assicurazioni. Anche Francoforte in calo del 3,18%, negativa l'America con il Dow Jones che c'è dell'1,14%, negative anche naturalmente tutte le altre piazze finanziarie europee, ed euro in calo a 1,21,22 contro dollaro. I titoli di Stato, che teniamo sempre sott'occhio in questo periodo, spread in rialzo tra titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni a 517 punti, così come sono in rialzo i rendimenti al 6,34% dei titoli decennali italiani, mentre quelli spagnoli sono al 7,48%. Questo in brevissimo il quadro della giornata, mentre continuate a mandarci SMS sul tema del ruolo e delle responsabilità di questa Germania. Da chiarire che quando parlavo dei vantaggi che la Germania ha da questa situazione, come per esempio quelli per le imprese, i tassi ai quali banalmente si finanziano le imprese, insomma, rispetto a magari delle concorrenti italiane, per esempio nel settore della meccanica, un settore nel quale tradizionalmente appunto siamo concorrenti della Germania, il vantaggio naturalmente di avere un debito pubblico, e tra l'altro questo sarà il primo tema che affronteremo adesso, per cui di fatto la remunerazione è negativa, di fatto la Germania viene pagata per tenere dei soldi in deposito, per dirla brutalmente, insomma, è molto semplicemente, insomma, era semplicemente un ragionamento sull'utilità che ha da tutto questo la Germania. Mi chiedevo semplicemente, in una situazione come questa, chissà un paese come il nostro che cosa avrebbe fatto, se avrebbe mostrato questa grande solidarietà europea che in questo momento alla Germania chiediamo. posto che questa solidarietà ci vuole, non ho detto che non ci voglia, dico semplicemente che probabilmente anche per un calcolo politico e di interesse nazionale la Germania ha i suoi torti, ma è anche comprensibile. Veniamo dunque a parlare dei titoli di Stato. Tra l'altro oggi appunto hanno collocato proprio i tedeschi, ha venduto la Germania 2,7 miliardi di bond, titoli ad un anno, rendimento al meno 0,054%, con forte domanda. La domanda ha raggiunto i 6,3 miliardi di euro, più del doppio rispetto all'importo massimo in offerta. Minimo storico intanto per i rendimenti dei treasuries, i bond americani, i bond di Stato americani. I titoli a 10 anni sono calati all'1,409% a fronte del minimo storico precedente, che è del 1 giugno, all'1,437%. Saluto Angelo Drusiani, responsabile investimenti Banca Albertini SITS, che spesso ci accompagna quando parliamo appunto di temi di obbligazioni, in particolare di obbligazioni di Stato. Drusiani, buonasera. Buonasera a tutti voi. Ma come mai si continuano a comprare questi titoli tedeschi? È questo che le vorrei chiedere, perché insomma ci saranno pur nel mondo, a partire dagli Stati Uniti che abbiamo nominato, dei paesi solidi e che danno dei rendimenti positivi. Come mai si continua, a questo fly to quality, questo volo verso la qualità, per tradurla proprio in maniera letterale, che però è un volo verso la qualità che appunto non dà rendimenti, dà rendimenti negativi, anzi tocca pagare la Germania. Come mai? La Germania è l'emblema della sicurezza. In una fase come questa, in cui gli investitori sono spaccati tra chi ricerca assolutamente sicurezza, costi quel che costi, e chi invece cerca ancora qualche rendimento, la domanda si rivolge prevalentemente alla ricerca di sicurezza, perché c'è troppa incertezza sui mercati, sulle prospettive dell'economia, sulle prospettive della finanza, per cui una grossissima fetta di investitori preferisce non avere rendimento, ma la certezza della restituzione del prestito che ha fatto. Ma mi scusi se ritorno sulla domanda, ma non c'è nessuno, ma perché il denaro non si sposta per esempio verso gli Stati Uniti, appunto, che rendono quantomeno un 1,4%? Ci sono due ragioni. La prima ragione è che molto spesso il rapporto di cambio tra la moneta americana e le altre monete, non dico che sia manovrato, ma abbastanza, nel senso che le autorità americane desiderano avere un dollaro debole perché possano esportare di più i propri produttori. La seconda ragione è che gli Stati Uniti non sono in una situazione come siamo in Europa a livello di debito pubblico, per la semplice ragione che il Tesoro americano stampa moneta e compra i titoli di Stato che vengono emessi, quindi questo fa sì che la speculazione non possa attaccare quei debiti come avviene invece da noi, di conseguenza la situazione sembra tutto tranquilla, ma in realtà è tutt'altro che tranquilla, perché il rapporto deficit PIL degli americani è il 10% circa. Il rapporto debito complessivo, stock di debito rispetto al PIL è sopra il 100%, quindi sono dati non come quelli italiani, però non neanche dissimili. Devo dire che continua a essere un paradosso che anche per gli ascoltatori è poco comprensibile. Ci scrivono per esempio al 349-238-6666, dice: se io ho 100 e per darglieli in cambio me ne danno 99, me li tengo, chi li dà? Ci scrive un ascoltatore con un'espressione un po' forte, dice: è scemo forte, insomma, non c'è modo invece di tenerli fermi per i grandi investitori questi soldi, cioè non è più conveniente. I grandi investitori, come anche un piccolo risparmiatore dovrebbe fare, diversificano i loro investimenti tra varie tipologie di strumenti, tra vari paesi, quindi aree geografiche nei quali investire. Quindi quando manca ad esempio il peso nei confronti della Germania, un peso abbastanza è ritenuto basso rispetto a quello che dovrebbe essere la percentuale che i portafogli di questi investitori dovrebbero avere, gli investitori comprano questa tipologia di titoli a prescindere dal risultato che avranno, quindi è proprio una questione di equilibrio, di diversificazione tra i vari strumenti e tra i vari paesi nei quali essi desiderano investire, quindi in certi momenti prediligono, dicevo prima, la sicurezza, si disinteressano del fatto che il rendimento sia negativo. Siamo con Angelo Drusiani, responsabile investimenti di Banca Albertini Sits. Vi ricordo ancora una volta il numero per gli sms, il 349-238-6666. Come le dicevo, Drusiani, quello che vorrei capire da lei adesso, visto che un massiccio acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, un po' come avvenne a novembre, cioè nell'ultima parte dell'anno passato, le sembra probabile, possibile, le sembra che possa riguardare anche il nostro paese in assenza di questo scudo antispread che a quanto pare arriverà, se arriverà, solo dopo il 12 settembre, quando si pronuncerà la Corte Costituzionale tedesca? Sarebbe opportuno intanto che la Banca Centrale Europea mutasse un po' il proprio regolamento e che non si preoccupasse solo dell'inflazione, anche perché mi sembra che di problemi sul mercato in generale e sull'economia ce ne siano di ben più gravi che l'inflazione. Per quanto riguarda la sua domanda, invece, io credo che in questo momento sarà più probabile che la Banca Centrale Europea ripeta un'operazione tipo quelle fatte fine dicembre, fine febbraio, cioè con un prestito molto rilevante di liquidità alle banche affinché si finanzino, ma al tempo stesso indirettamente finanzino gli stati comprando i loro titoli, perché alla fine il discorso è poi questo: la Banca Centrale Europea non compra più titoli di Stato se non in misura molto modesta, quindi che non incidono minimamente, però potrebbero fare le banche, però il segnale non è altrettanto forte. Il segnale sarebbe forte se, come diceva lei prima, la Banca Centrale Europea iniziasse davvero a ricomprare titoli di Stato, ma in maniera corposa, non a spizzichi e bocconi come è avvenuto nel passato, perché il segnale è forte se, come negli Stati Uniti, è costante l'acquisto, ma anche nel Regno Unito e in Giappone questo avviene, se l'acquisto è costante e se la vigilanza e la presenza della Banca Centrale sul mercato è pressoché ininterrotta. Bisogna far sì in qualche modo che ci siano delle mani forti su questo mercato, le mani che appunto arrivano dall'Euro Tower. Grazie Angelo Drusiani, responsabile investimenti di Banca Albertini Sits, per essere stato con noi e buonasera. Grazie a voi, arrivederci. Noi rimaniamo naturalmente sui temi europei, dopo una giornata come quella non potevamo fare altro, e vediamo di fare un punto finale, cerchiamo di raccogliere tutto questo e appunto continuiamo a parlare d'Europa. Angelo Baglioni, economista dell'Università Cattolica di Milano, buonasera. Buonasera. Con lei appunto vogliamo fare un punto finale e complessivo di questa giornata molto convulsa dal lato dei mercati e di un fine settimana convulso dal lato delle dichiarazioni e delle indiscrezioni di stampa uscite. C'è chi inizia ormai a dare per certo, io lo so che vi sembra probabilmente sentire una replica di una trasmissione di qualche mese fa, però purtroppo questa è la situazione europea, di uscita della Grecia dall'euro un'altra volta. A questo punto lei come la vede? La possibilità è seria, concreta? Vedo che il problema si trascina da 2 anni e mezzo e siamo ancora al punto di partenza, nel senso che sostanzialmente la prospettiva è quella di una insolvenza disordinata della Grecia, dico disordinata per distinguerla dal piano, diciamo, di ristrutturazione del debito che è stato fatto all'inizio di quest'anno, un'insolvenza disordinata e la prospettiva di un'uscita anche dall'area euro. Naturalmente non è detto che questo avvenga, non siamo sicuri di niente in questo momento, però il pericolo si fa sempre più concreto. Il nuovo governo di Samaras ha già chiesto di rivedere il memorandum of understanding che era stato firmato a suo tempo. D'altra parte invece la Troica, che in questi giorni sta arrivando ad Atene per controllare che sia stato attuato il programma concordato a suo tempo, si mostra piuttosto rigida, insomma c'è una rigidità da parte dell'Europa sulla ipotesi di una rinegoziazione del memorandum of understanding. Quindi credo che la situazione sia molto tesa e che si stiamo avvicinando a un momento di rottura. Naturalmente, naturalmente, come dire, è possibile che ci sia una via di uscita, che naturalmente la Commissione europea faccia alla fine in modo che almeno una parte della tranche che dovrebbe essere erogata in queste settimane venga erogata, e quindi di non fare, faccia in modo di non far precipitare subito la situazione, però è chiaro che si continua a camminare in un sentiero sempre più stretto, e l'insofferenza da parte di alcuni ambienti politici e governativi tedeschi è sempre più evidente, anche con le dichiarazioni di ieri. Certo, e mi sembra, ecco, mi sembra che ancora una volta, e anche qua ritorniamo, però forse con più corpo rispetto ai momenti precedenti che abbiamo affrontato, torna fuori la parola contagio. Perché dico con maggior corpo? Perché adesso il bersaglio non è più la Grecia, siamo stati noi per un breve periodo, ma è la Spagna. Mi sembra abbastanza assodato, professore, che quei 100 miliardi per le banche non basteranno e che la Spagna dovrà sottoporsi, altro che scudo antispread, a un vero e proprio bailout, ossia un vero e proprio salvataggio. Sì, ha perfettamente ragione, credo che ha proprio centrato il punto, quello che ha fatto precipitare i mercati tra venerdì e oggi, il fatto che questo piano per la Spagna, che era sempre stato venduto, diciamo così, dal governo spagnolo in primo luogo e anche dalle autorità europee come un piano destinato a ricapitalizzare alcune banche spagnole messe particolarmente male, di fatto poi si è trasformato in un vero e proprio bailout complessivo, sia dal punto di vista dell'utilizzo dei finanziamenti, parte di questi 100 miliardi verranno utilizzati, o almeno potranno essere utilizzati per acquistare titoli del debito pubblico spagnolo da parte del Fondo Europeo di Stabilità sul mercato primario o secondario, e anche dal punto di vista della condizionalità, nel senso che le condizioni imposte non riguardano solo le banche. Il memorandum of understanding siglato venerdì in realtà richiama anche la procedura per disavanzo eccessivo, richiama il semestre europeo e quindi il rispetto degli impegni presi dalla Spagna con l'Europa per quanto riguarda l'obiettivo fondamentale di raggiungere un rapporto deficit-PIL inferiore al 3% entro il 2014, e dice chiaramente che c'è un monitoraggio parallelo da parte della Troica su questi aspetti, certo, oltre che sul sistema bancario. Certo, tra l'altro, giusto per aggiungere un particolare così curioso, la Troica è diventata una Troica fatta di quattro elementi, perché ai soliti tre si è aggiunta anche la EBA, la European Banking Authority. Non so quale termine riuscirete a coniare a Non si sa. Professore, veramente abbiamo pochissimo tempo. La domanda che le vorrei fare è questo, a questo punto, ed è una domanda che riguarda l'Italia. Un commento del Financial Times nei giorni scorsi ipotizzava questo: visto che la Spagna è stata di fatto costretta da questo accordo firmato il 29 di giugno ad una manovra molto tosta, l'aumento dell'IVA, il taglio delle tredicesime, quello che ha portato in piazza gli spagnoli, l'FT diceva probabilmente anche Monti ha sottoscritto qualcosa di questo genere in cambio dello scudo antispread. A questo punto dovrebbe parlare chiaro al paese e dirglielo. Al di là di questo, lei ritiene probabile o possibile che sia avvenuto qualcosa di questo genere, che in cambio dell'accordo sullo scudo antispread il Presidente del Consiglio abbia dovuto promettere altre lacrime e sangue? Ma mi sembra un po' dietrologica come interpretazione. Io non credo, perché l'Italia si è già presentata al vertice di fine giugno, avendo già attuato da 8 mesi circa a questa parte misure molto forti dal punto di vista della finanza pubblica e anche poi le misure strutturali cosiddette sul mercato del lavoro e su altri fronti. Quindi direi che l'Italia si presenta fra l'altro con saldi di bilancio molto migliori di quelli della Spagna. Siamo un paese con un avanzo primario che dovrebbe raggiungere il pareggio di bilancio complessivo l'anno prossimo, quindi non credo che l'Italia sia nelle condizioni di dover barattare cose di questo tipo, perché come si dice i compiti a casa li ha già ampiamente fatti. Naturalmente restano tante cose da fare che si possano migliorare, però da questo punto di vista l'Italia si presenta molto meglio della Spagna e quindi non mi sembra il caso che si possa pensare a una contrattazione di quel tipo. Grazie dunque al professor Angelo Baglioni, economista dell'Università Cattolica di Milano, per essere stato con noi. Buonasera professore. Buonasera, grazie a voi. Noi chiudiamo qua questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, come sempre in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo con Focus Economia domani dopo il GR delle 17, con la mia voce tra poco, con gli aggiornamenti sui mercati. Radio 24. La passione si sente.